se vivessimo di questi concetti. Ma che sagra sarebbe la vita? No, non basta essere nella sagra un giorno, due giorni, sette giorni, essere nella sagra quanto dura il mese dalla luna di miele. Tutta la vita. Dio ha imbandito un banchetto per noi come fossimo ciascuno di noi il suo figlio unigenito. Tutta la vita è una festa, a capirla, a intenderla. Anche il tramonto, tramonto roseo, rosso di sera, bel giorno si spera. Siamo in cammino tutti verso quel tramonto, giovanissimi e non più tanto giovani, tutti. Ma Dio si è levato prima del nostro sole e Dio non tramonta. Ti aspetta al varco, al valico della morte, per introdurci attraverso questo valico in un mistero insondabile, il mistero della sua immensa felicità. Siamo qui che ci alleniamo ad essere felici. Questi anni qui siamo al mondo a imparare ad essere felici. Dobbiamo imparare quest'arte perché dopo non si torna più indietro per aggiornarci in questo studio. Dopo di là dovremmo essere felici della stessa felicità di Dio, immensa, incalcolabile. Facciamo presto ad allenarci che non ci tocchi stare al purgatorio dove ci si aggiorna. Aggiorniamoci qui finché siamo in tempo a dar ragione al Signore, a fidarci di Lui. E poi, varcata quella soglia, ci troveremo immersi nella stessa immensa gioia di Dio. Prepariamoci, prepariamoci. I santi e le sante che sono figli e figlie della Chiesa sono tutti morti felici perché già sentivano che stava per spalancarsi davanti a loro non un festival, no, il festival di Dio. È già così bello il creato, chissà cosa sarà l'increato. Dio, Dio, quelle poche volte che noi ne abbiamo sentito la presenza nel creato abbiamo sentito che il cuore balzava di gioia. Ecco, è un piccolo segno questo di ciò che ci attende. Siamo al mondo per imparare l'arte di vivere nel paradiso. E bisogna che qui noi impariamo sul serio ad essere felici. Che talvolta abbiamo pensato di aver imparato e siamo andati a finire male, altro che gioia. Siamo tornati a casa avviliti, per un pelo non eravamo disperati, perché è un'arte difficile da imparare. Tu credevi di impararla perché sei andato al ballo, perché hai preso la droga? Oh, credevi di imparare un'arte così difficile con cose così sciocche? Su, finché hai vita, impara ad essere felice della stessa felicità di Dio, dando ragione a Dio. Dio mio, hai ragione. Dio mio, mi fido di te. Mio Dio, tu hai contato i battiti del mio cuore dal primo battito nel grembo di mia madre e non hai usato nessuna calcolatrice elettronica. Tu mi porti scritto nel tuo cuore. Tu sai quanti capelli sono caduti dalla mia testa dalla prima volta che le forbici del barbiere si sono posate sopra la mia chioma, i miei capelli. Tu hai contato tutti i passi, nessuna mamma li ha contati, nessuno di noi è stato così bravo da contare i passi fatti. Tu, Signore, non ne hai perduto uno solo dei miei capelli e non ti è sfuggito uno solo dei miei passi. Dio mio, quanto sei grande e quanto vali. E tutto quello che tu sei e che hai è per me, per il mio bene. Signore, di chi mai potrò fidarmi se non mi fido di te? Ecco la nostra meditazione fondamentale. Siamo al mondo per imparare l'arte della gioia, della felicità. Perché poi, varcato il valico, noi ci troveremo immersi nella stessa gioia del Creatore, nella stessa gioia dell'Eterno Padre, dell'Eterno Figlio, dell'Eterno Amore, Spirito Santo. Viene proprio la voglia di cantare.